Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 6 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV. Io sono sempre Caterina, la conduzione e cura di questo programma, assieme a Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Antonella, dillo tu. Sì, oggi lo dico io e vi dico che dal 1 luglio siamo partiti con il crowdfunding, la nostra campagna per poter rimanere con voi tutti anche d'estate. Sapete che l'estate è un periodo difficile, soprattutto per i ristretti che vivono nelle celle calde e anche un po' in isolamento. Quindi vogliamo continuare ad esserci e per essere con tutti voi c'è bisogno del vostro aiuto. Quindi donate e potete cercarci sul sito www.ideaginger.it e cercare appunto il nostro programma, il nostro progetto che si chiama Eduradio TV. E mentre sicuramente starete cercando su ideaginger.it ed Uradio TV, vi racconto la notizia di oggi. Siamo alla Spezia, i rifiuti della casa circondariale diventano un'opera d'arte. Lo leggo da cittadellaspezia.com, perché si è concluso il laboratorio Il rifiuto non esiste, che ha coinvolto circa 7 detenuti spezzini in un progetto dell'associazione Colibrì, realizzato con la consulta femminile e il patrocinio del Ministero di Giustizia. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è il rifiuto? È rifiuto tutto ciò che viene scartato, eliminato, l'avanzo, ciò che sfugge ai nostri binari di riconoscimento e anche di utilità. Eppure ciò che ha animato questo laboratorio è proprio la consapevolezza che etichette, confinamento, chiusure anche a prioristiche rischiano di precludere anche percorsi virtuosi di rara ricchezza e sofferta trasformazione e anche presa di coscienza reale del pentimento e del possibile riscatto in qualche modo. Del resto mi viene un po' di pensare che la funzione rieducativa della pena a questo deve ambire, no? Il recupero delle persone e delle loro vite. Hai ragione Antonella, infatti è proprio così che è nato il progetto Il rifiuto non esiste. Nel riflettere proprio anche sulla capacità dell'artista Cosimo Cimino, che aveva avviato l'anno prima il progetto delle Sarrande cittadine, l'associazione Colibrì pensò di portare questo messaggio all'interno di un contesto, diciamo, inusuale, che è proprio la realtà carceraria. Dicendo, se il rifiuto non esiste per la materia, a maggior ragione non può esistere e adattarsi all'essere umano, o peggio, descrivere la condizione dell'essere umano. Scusami, alla fine che cosa hanno prodotto? Alla fine hanno prodotto, attraverso un grandioso percorso di squadra, un'opera collettiva attraverso l'utilizzo di lattine, bottoni, tappini a corona, tappini di sughero, petali di rosa oppure carta di giornale, diretti dall'artista spezzino, lo stesso Cosimo Cimino, un'opera molto complessa attraverso l'utilizzo di tutti questi materiali, mirando a un'opera delle dimensioni pazzesche, 4 metri per 2, che rappresenterà il Golfo della Spezia, con la costa di Porto Venere e delle Cinque Terre. L'obiettivo è quello di trasmettere la consapevolezza che anche nelle situazioni più difficili, come per l'appunto il carcere, vi è lo spazio per la bellezza e che anche all'interno di percorsi che stigmatizzano condotte gravi occorre trovare la forza e il coraggio di trovare luce. E l'idea è stata accolta con molto entusiasmo anche dalla direzione della Casa Circondariale della Spezia e dal suo staff, per poi aprirsi alla consulta provinciale femminile e all'adesione di altre realtà del territorio, come per esempio la Casa delle Donne. Quest'opera, che ormai volge il suo compimento, sarà presentata alla città all'interno della manifestazione Corazon 2021, per essere infine collocata definitivamente all'interno della Casa Circondariale della Spezia, dove sono le persone che l'hanno prodotta. Caterina, ormai cambi autore ogni giorno. Chi ci presenti oggi? Sempre a tema libertà e liberi dentro c'è Fabrizio De André con Nella mia ora di libertà. Tra le tante canzoni di Fabrizio De André, questa è quella che parla di libertà ed è tratta dall'album Storia di un impiegato ed è forse una delle più profonde, potenti e anche complesse. ha un attacco in questa canzone che è tutto un programma, dice di respirare la stessa aria di un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Ma ascoltatela sul vivo perché è bellissima. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. E rieccoci, bentornati sulle note di Fabrizio De André nella mia ora di libertà. Antonella, parliamo di Amazon. È vero che è sempre legata un po' ai rifiuti questa notizia. Sì, infatti rimaniamo in tema, perché parliamo di temi importanti, Caterina, di ambiente, di preservare il pianeta, di innescare dopo tutto comportamenti virtuosi nelle persone. Ma poi si scoprono delle realtà alle quali non pensiamo quando ci trasformiamo in consumatori. E c'è un'inchiesta che è stata svolta dall'emittente britannica LTV, che ha ottenuto testimonianze, documenti e materiali video che documentano gli sprechi di dimensioni preoccupanti all'interno della multinazionale statunitense Amazon. In un solo centro nel Regno Unito, decine di migliaia di prodotti venduti di ogni tipo vengono trasportati ogni settimana a far distruggere, ancora imballati. Nel mezzo quindi anche dei Prime Day, sai, quelle giornate in cui non paghi il trasporto, che Amazon aumenta il fatturato vertiginosamente, è emerso proprio questo documento. Un documento che mostra quale fine facciano invece i prodotti che rimangono stoccati in eccedenza all'interno dei magazzini del gruppo. Si tratta di un reportage sempre della LTV, nel quale ci sono anche testimonianze di ex dipendenti, documenti interni, video che mostrano veramente decine di migliaia di prodotti che finiscono distrutti, pur essendo nuovi o restituiti dopo pochi giorni dall'utilizzo. In realtà questa inchiesta era stata fatta già nel 2019 da una TV francese. Ma ti chiedo, che economia è questa? Sembra quasi alla rovescia, non credi? In effetti è un po' un'economia strana questa qui. Sul motivo dell'enorme spreco, tanto per dirti, la spiegazione elaborata dall'emittente al TV è logica ma agghiacciante. Il sistema di spedizioni di Amazon è talmente apprezzato che i venditori esterni scelgono di affidarsi al gruppo per conservare i propri prodotti in attesa di spedizione. Il problema è che più a lungo restano in magazzino, più aumentano i costi, ovviamente. Una progressione nei costi di questo tipo fa sì che si scelga alla fine di mandare tutto al macero, perché conviene di più distruggere piuttosto che pagare i costi di magazzino oppure di ritiro. E questa, insomma, è una posizione veramente pazzesca, se ci pensate. Si crea proprio un paradosso che assume delle proporzioni veramente preoccupanti. Un impiegato, tra l'altro, ha dichiarato, ad esempio, che in alcuni periodi l'obiettivo settimanale era di mandare al macero 130.000 unità di prodotti diversi. Il tutto, tra l'altro, per una sola struttura. Stiamo parlando di una struttura, una delle 24 strutture del Regno Unito. L'emittente britannica ha infatti messo nel mirino solamente uno di questi luoghi, però pensate che ce ne sono tantissimi disseminati in tutto il mondo ormai. Ma Antonella, cosa viene distrutto? Mi viene da pensare. Chissà che cosa viene consumato per la maggiore e poi immediatamente falcidiato come rifiuto. Sì, e tra l'altro intonso, quindi mai utilizzato nella maggior parte dei casi. Ma guarda, ci sono ventilatori di marca, aspirapolveri, qualche MacBook addirittura hanno trovato, oppure degli iPad, e solo poche settimane fa 20.000 mascherine anti-Covid ancora imballate. In effetti, appunto, come ti dicevo, il 50% della merce che finisce distrutta risulta assolutamente intonsa. Il resto possono essere poi prodotti restituiti dagli utenti per dei resi, ma ancora perfettamente funzionanti e sostanzialmente nuovi. E se da un certo punto di vista è possibile comprendere le logiche dietro a questa scelta, da un altro punto di vista diventa tutto assurdo, anche perché potrebbe avere un'altra vita questo materiale, questo prodotto. Potrebbe esserci un mercato secondario, per esempio, o ancora di più, una cosa ancora più virtuosa potrebbe essere la beneficenza. Assolutamente. Mi chiedo a questo punto qual è stata la reazione di Amazon di fronte a questa inchiesta. Guarda, dopo la pubblicazione dell'inchiesta, la multinazionale di Jeff Bezos ha commentato di essere al lavoro proprio su queste tematiche, ma in realtà non è illegale quello che fanno, non c'è nessuno Stato che impedisce questo tipo di atteggiamento, e finché non ci sarà questo impedimento attraverso delle leggi, dei regolamenti da parte dello Stato, potrebbero continuare a fare come stanno facendo fino ad oggi. E soprattutto anche la consapevolezza da parte di noi consumatori, che veramente siamo l'anima forte dell'economia. Quindi finché non ci rendiamo conto noi, è impossibile aspettare le leggi, direi. Ma passiamo alla musica o a qualcos'altro? Allora, anche oggi voglio farvi ascoltare uno stacchetto virtuoso. Dopodiché vi faccio riascoltare Angélique Kidjo, perché questa è la sua settimana, e di questa autrice musicista del Benin, con l'album Mother Nature, e la canzone si chiama Do Yourself. Ascoltatela. Liberi Dentro ed Uradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia Romagna. Eduradio è un pilastro di Radio Città Fujiko. Uomini e storie, la rubrica della redazione Eduradio di Parma, per parlare di donne, uomini, le loro storie. Gruppi di Vangelo, pensieri, parole, immagini, racconti ed emozioni a più voce, canzoni, per capire e vivere il Vangelo di Gesù. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Do it. real Africa. They don't know what we're supposed to be African and African. Let me watch them feel right now. Should have a real feel right now. I'm trying to build right now. Do you really wanna make it fall apart? Buongiorno a tutti, oggi siamo qui insieme a Stefano Cavallini, ex presidente del Giallo Dozza, la squadra di rugby del carcere. Via con la pillola. A te personalmente cosa ti ha spinto a prenderti, diciamo, questo impegno? Ma guarda, io per la mia esperienza di vita, io sono anzianotto, la mia esperienza di vita è stata di impegno politico e di impegno nel volontariato. Poi la passione per il rugby sommata ha fatto sì che questa cosa nascesse. Io avevo finito l'esperienza nel rugby di Ferrara e, come si dice, ero in attesa di sviluppi, e questa è stata un'occasione che mi rende particolarmente energetico, diciamo così. Chiaro, chiaro. No, ma infatti poi noi abbiamo visto, insomma, allora noi ce l'hanno parlato un po' tutti di questa esperienza, in particolare Ziccone, il direttore Massimo che sì, ha giudicato molto positivamente, ha detto che, insomma, è una delle esperienze a livello proprio laboratoriale, se vogliamo così, delle migliori che ci sono nel carcere, anche perché ci ha detto anche lui che lascia proprio un segno, no? A livello di comprensione, a livello della disciplina, del convivere assieme pacificamente, facendo squadra, facendo team. E poi abbiamo visto il film di Enza Negroni, che tra l'altro avremo l'intervista oggi pomeriggio, dove tutte queste tematiche vengono fuori, sia nelle impressioni dei ragazzi che vengono appunto catturate dalla telecamera, che da voi, da quello che dite voi, da quello che dice l'allenatore durante... quindi viene molto fuori. E io ti volevo chiedere anche, tornando un attimo indietro, mi dicevi che nella prima fase ci sono state chiaramente delle difficoltà sportive, organizzative. Ci racconti quali sono stati, diciamo, i primi momenti in termini sia di gioie che di dolori di questo percorso, se possiamo fare uno zoom su quel periodo iniziale. Noi abbiamo cominciato e la nostra presenza ha cominciato a prendere posto e doveva farsi largo e consolidarsi, e lo doveva fare all'interno di una struttura in cui i tempi, i modi, le regole sono molto vincolanti. Noi eravamo in quel momento un corpo estraneo che voleva insediarsi e quindi rischiava, e in parte ha avuto ha incontrato delle resistenze dovute al fatto che eravamo una cosa nuova, una novità che comportava una modifica di atteggiamento anche dei nostri interlocutori. E quindi abbiamo dovuto lavorare con di fino, perché avevamo a che fare anche con delle personalità importanti, perché la polizia penitenziaria è una struttura che è una struttura molto omogenea, costituita da uomini diversi fra di loro, chi più aperto a esperienze nuove, chi meno aperto. Abbiamo avuto la fortuna di riuscire a superare queste rigidità che all'inizio erano molto forti, e quindi la difficoltà era quella di cercare di non dare spallate troppo violente, perché altrimenti avremmo avuto delle reazioni altrettanto violente, violente in termini di comportamenti, non di altro. Il comandante, persona molto attenta, ci ha in un qualche modo compreso rapidamente e ha fatto sì che noi potessimo muoverci con una discreta libertà di movimento. Adesso invece è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo prestissimo. Colta fin da subito la potenzialità dell'intervento ed è stato compiuto un atto molto importante, e cioè quello di riunire tutti i giocatori detenuti nella medesima sezione, mentre prima erano in sezioni diverse. E questo è importante perché diciamo che la sezione, il braccio nel quale sono ospitati questi giovani, è diventato il nostro spogliatoio. E come sa chi fa sport, nello spogliatoio si fa a metà della partita. E quindi certo, questo è stato il segno che si era capito e le cose si infilavano giuste. La direttrice, il personale educativo e Massimo Zicone, a cui facevi riferimento tu, sono stati, come dire, la nostra spalla e i nostri conduttori, i nostri partner più importanti. Poi abbiamo, ragionando con loro, noi abbiamo cominciato allenandoci molto alacremente, come allora, anche oggi, 3 giorni alla settimana di allenamento, 1 giorno di teoria e la mattina palestra, era un impegno importante. Si stavano consolidando delle relazioni fra i giovani detenuti, che però sono individui, e fare superare l'approccio individuale è un passaggio importante. E abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo detto se questi soltanto facendo allenamento diventano una squadra, diventano un gruppo, aggiungiamoci la competitività, iscriviamoci al campionato, vediamo cosa salta fuori. E beh, questo elemento della competitività, l'occasione di incontrare ragazzi che vengono da fuori, perché noi giochiamo contro squadre di ragazzi liberi, non di altri detenuti. Chiaro. È un'occasione per entrambi, sia quelli fuori che quelli dentro, di maturare, crescere e comprendersi. E allora questo è, come tu dicevi e chiedevi, i momenti di bassa e i momenti di alta. I momenti di bassa sono stati quelli di competere con la struttura del carcere per farsi accettare. Beh, oggi devo dire che ci chiedono quando ricomincia il campionato i membri della polizia, gli agenti della polizia penitenziaria. Dato che alle nostre partite, quando c'è il campionato, devono stare giù in numero abbastanza ragguardevole, sono diventati tifosi. Ci manca solo che vengano giù con lo striscione, ma ci chiedono come sono andate le altre, perché sanno che noi ci stiamo giocando un campionato. Bellissimo. Quindi siamo entrati, come dire, e oggi non mi chiamano Stefano, non mi chiamano signore, mi chiamano press. Quindi vuol dire che siamo in un qualche modo parte integrante di questo percorso. La competizione ha fatto capire anche, poi interrompetemi perché io non mi fermo mai. No, più che altro ecco, mi collegavo a questo per fare una piccola domanda a cui hai già risposto. Anche per oggi il nostro intervento termina qui, torneremo presto con nuovi aggiornamenti da chi vive, per chi vive il carcere. Se avete qualsiasi domanda potete scriverci su Facebook o su Instagram al canale Liberi Dentro Edu Radio. A presto, ciao a tutti. E dopo questo approfondimento a cura di Lorenzo e Simone per ASP Città di Bologna, dove avete ascoltato Stefano Cavallini del Giallo Dozza Bologna Rugby, noi ci diamo appuntamento tra poco, sempre per le nostre rubriche Oggi Parliamo Di. Avremo le lettere dal carcere, quindi ci vediamo tra poco se ci sta seguendo su Lepida oppure alle 17 su Teletricolore e sempre alle 6.30 sulla radio. A domani, buona giornata a tutte e tutti e un ringraziamento speciale a Pasquale Pitagnello, sempre con noi al montaggio di queste puntate, e ad Antonella Cortese, sempre con me in conduzione. Buona giornata, a domani. Liberi Dentro Edu Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.